Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1866, le finanze, la rivolta di Palermo e gli italiani da fare. 720 milioni di lire. A tanto ammonta, secondo i dati forniti nei giorni scorsi, il deficit di bilancio italiano. Un deficit che si è aggravato a causa delle spese di guerra e sarà il primo problema da affrontare per il presidente del Consiglio, Bettino Ricasoli, e per il suo ministro economico, Quintino Sella. La pressione fiscale aumenta di anno in anno e particolarmente pesante risulta, soprattutto per il Sud, la tassa sulle rendite fondiarie. E anche a causa dei nuovi balzelli, della povertà, oltre che della qualità dell'amministrazione piemontese, che a Palermo si è scatenata una rivolta violentissima. Migliaia di persone, tra cui, da quel che ci è dato di sapere, anche ex garibaldini, hanno preso d'assalto gli uffici pubblici e hanno tenuto sotto scacco le forze dell'ordine anche nei paesi circostanti per una settimana, lasciandosi andare a violenze terribili. A Misilmeri, un uomo, una guardia di pubblica sicurezza, è stato linciato dalla folla e lasciato morire dissanguato sulla strada perché aveva fatto rispettare la legge, dicono fonti ufficiali, vietando il passaggio dei porcari con i loro maiali all'interno del paese. L'esercito comandato dal generale Raffaele Cadorna ha reagito durissimamente. La città è stata cannoneggiata dal mare, poi sono partite le perquisizioni e i controlli casa per casa. Alla fine le vittime sono state oltre 200 tra soldati e uomini delle forze dell'ordine, mentre tra gli insorti sono morte in almeno un migliaio. Una commissione d'inchiesta parlamentare cercherà di far luce su questo massacro. E dunque, sullo sfondo dei problemi finanziari, resta aperta una questione sociale e una questione politica. L'ex presidente del Consiglio, Massimo D'Azeglio, è scomparso all'inizio dell'anno. Il Gazzettino del Risorgimento ha realizzato con lui un'intervista prima che morisse. Le sue parole oggi suonano come un monito. Il primo bisogno d'Italia è che si formino italiani dotati d'alti e forti caratteri. Eppure troppo si va ogni giorno più verso il polo opposto. Purtroppo si è fatta l'Italia, ma non si fanno gli italiani. Ma c'è qualcosa, presidente, che ha a che fare, secondo lei, con il carattere degli italiani che non funziona? Gli italiani hanno voluto fare un'Italia nuova e loro rimanere gli italiani vecchi di prima, con le dappocaggini e le miserie morali che furono ab antico la loro rovina. Pensano a riformare l'Italia e nessuno s'accorge che per riuscirci bisogna prima che si riformino loro. Parole che suonano come un monito, appunto, soprattutto in questo 1866, con il Veneto appena annesso e i veneti che vanno fatti italiani. Simone Spezia, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.